presenza, versa il tuo Santo Spirito su noi. Nel tuo dolce amore, fiumi d'acqua viva dentro noi, che crediamo in te. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, oh, oh. Non è per forza né per potenza, ma è per il tuo Santo Spirito Consolator, aleggia su di noi. Spirito Santo, guida i nostri cuori. Consolator, aleggia su di noi. Spirito Santo, guida i nostri cuori nella verità. Nella verità. Di te, nella tua presenza, versa il tuo Santo Spirito su noi, parlaci di te, parlaci di te. Viva dentro noi, che speriamo in te. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo, oh, oh. Non è per forza né per potenza, ma è per il tuo Santo Spirito Consolator, aleggia su di noi. Santo, guida i nostri cuori. Consolator, aleggia su di noi. Spirito Santo, guida i nostri cuori nella verità. Consolator, aleggia su di noi.